24, i gialli della storia. Bentornati a Mix 24 per l'ultimo capitolo sulla storia dell'economia del mondo. È il 1991, Boris Yeltsin è il nuovo presidente della Russia e ha nominato Igor Gaidar, che ha soli 35 anni, responsabile di tutta l'economia russa. Gaidar riunisce una squadra di giovani economisti esperti di libero mercato. Tra loro c'è anche il 36enne Anatoly Chubais. Jeffrey Sachs a questo punto ha 36 anni e viene chiamato anche lui a Mosca come consulente per le riforme economiche. Naturalmente avevo in mente l'esperienza polacca, ma la Russia si rivelò un caso del tutto diverso. In Parlamento la maggior parte dei comunisti e gli altri partiti si oppongono alle riforme. Fin dal primo momento Gaidar fu duramente attaccato dai politici. Appena 7 giorni dopo l'inizio delle riforme, il capo del Parlamento chiese le dimissioni del governo. Gaidar e i suoi collaboratori vogliono utilizzare le riforme economiche come arma politica per distruggere il vecchio sistema comunista, prima che questo distrugga loro. 31 dicembre 1991. Da domani i prezzi saranno liberalizzati. Le riforme di Gaidar toccheranno direttamente l'uomo della strada. Sarà anche la fine di tutto ciò per cui i comunisti si sono sempre battuti. Gaidar riesce a far abolire la legge sovietica che criminalizza ogni attività privata e sostiene che un mercato veramente libero finirà col porre fine ai razionamenti. Ascoltiamolo. Stavo andando nel mio ufficio sulla Piazza Vecchia, vicino a un negozio per bambini. Vidi una gran folla. C'erano centinaia di persone con le merci più svariate. Avevano tutte una copia dell'autorizzazione al libero commercio e cercavano di comprare o vendere merce. A quel punto mi resi conto che 75 anni di comunismo non erano riusciti a soffocare lo spirito imprenditoriale. Fu un momento cruciale. Sentivo che avevamo ragione e che le forze di mercato funzionavano, anche in quella economia sofferente. Il mercato rinasce, ma per l'uomo della strada le riforme significano prezzi più alti. Andai in un grande magazzino. Volevo vedere le facce dei moscoviti, vedere se avrebbero protestato davanti a quei prezzi esorbitanti, che secondo Gaidar dovevano soltanto raddoppiare. Invece aumentarono di 12 volte. I prezzi continuano a salire. Gli intransigenti che dirigono la banca centrale peggiorano la situazione. La loro politica alimenta l'inflazione. Dopo una prima apertura al libero mercato, le leve del potere economico sono ancora nelle mani dello Stato. In un impeto di idealismo, i giovani economisti decidono di democratizzare le industrie statali semplicemente svendendole. Il responsabile di questo programma di privatizzazione è Anatoly Chubais. I 70 anni di monopolio comunista stanno per finire. I cittadini russi ricevono dei buoni da utilizzare per l'acquisto di azioni delle aziende privatizzate. I giovani riformatori corrono contro il tempo. Dovevamo sbrigarci. Senza privatizzazione non ci sarebbe stata economia di mercato. Limitano la ricerca a un'azienda nei dintorni di Mosca. Non è esattamente ciò che Lenin avrebbe definito un pilastro dell'economia, ma la fabbrica di biscotti bolscevic produceva i dolcetti preferiti dai russi. Aprimmo al pubblico la prima asta ufficiale di un'azienda russa l'8 dicembre 1992. Il giorno dell'asta la rabbia degli oppositori delle riforme si sfoga in Parlamento. I comunisti della vecchia guardia ritirano la fiducia a Gaidar. Yeltsin è costretto a sacrificarlo, ma il processo è ormai avviato, anche se la sua andatura è ancora incerta. Inoltre a Mosca la speculazione è diffusa. Qualcuno chiama la Russia il selvaggio Est. Ascoltiamo l'economista Jeffrey Sachs. In molte società è presente la corruzione. La Russia aveva un'élite cresciuta in un ambiente così amorale durante il sistema sovietico da credere che la proprietà fosse davvero un furto. Pensavano, dato che siamo entrati in un sistema di proprietà privata, rubiamo. E in Russia c'era molto da rubare. C'erano petrolio, gas, nickel, cromo, diamanti, oro. E questo straordinario connubio di enormi risorse naturali e enormi fondi era nelle mani dello Stato. Le aziende più forti, quelle più importanti, sono ancora controllate dai loro onnipotenti direttori. Gli ex apparati sovietici sono anche conosciuti come i direttori rossi e si oppongono strenuamente ai giovani riformisti e alla privatizzazione. L'unico modo per privatizzare è togliere il potere dalle mani dei direttori rossi. Ce ne parla il padre delle privatizzazioni a Mosca, Anatoly Chubais. Uno dei primi incontri con i direttori fu davvero molto difficile. Odiavano il linguaggio che usavamo, odiavano la nostra faccia, odiavano qualsiasi cosa avesse a che fare con noi. Questi signori erano i veri padroni del paese. L'enorme complesso industriale di Norilsk diventa il principale campo di battaglia tra i direttori e una nuova figura di Russo. E Vladimir Potanin, un imprenditore che nel giro di qualche anno trasforma una piccola società commerciale in una delle maggiori banche russe. Decisi di diventare un imprenditore quando mi resi conto di poterlo fare. Sono cresciuto in un paese in cui non era possibile. Esisteva addirittura un articolo specifico nel codice penale dell'Unione Sovietica che condannava le attività imprenditoriali private. La successiva iniziativa di Potanin lo metterà in luce come imprenditore geniale agli occhi di alcuni e come opportunista agli occhi di altri. Nel 1995 decide di rilevare la Norilsk Nickel, ma questo significa mettersi contro uno dei più potenti direttori rossi. A Potanin servono alleati e li cerca tra i ricchi neoimprenditori. Verranno conosciuti come gli oligarchi, ancora Vladimir Potanin. Alla fine del 95 c'era una nuova elite imprenditoriale, composta, a mio parere, da manager capaci e qualificati, che però non possedevano niente. Ecco perché scoppiò una lotta tra i vecchi direttori rossi e i nuovi manager, che erano i soli artefici dei propri successi. Per fermare il potere dei direttori rossi, agli oligarchi serve un appoggio politico. Da un punto di vista politico era molto difficile togliere il potere dalle mani dei direttori rossi. Né il governo né Chubais erano abbastanza forti da vincere questa lotta. 1996. I comunisti stanno per vincere le elezioni presidenziali. Yeltsin e i riformisti devono trovare un modo per fermarli. Il governo e gli oligarchi hanno bisogno di sostegno reciproco e devono sbrigarsi. Il governo teme un ritorno dei comunisti. Gli oligarchi invece hanno paura di perdere le proprie fortune e allora stipulano un accordo segreto che permette loro di acquisire aziende strategiche a prezzi stracciati in cambio di un aiuto finanziario importante nella campagna elettorale per la presidenza. Potanin propose un programma di privatizzazione utilizzato ancora oggi, ma decisamente controverso. Il programma prevedeva che gli imprenditori russi concedessero prestiti al governo in cambio del possesso di azioni di aziende strategiche. Il dilemma non era scegliere tra questo programma di privatizzazione e un altro più trasparente, più aperto. Bisognava scegliere tra questo o niente. L'accordo dei prestiti su garanzia di azioni aveva lo scopo di creare un folto gruppo di uomini d'affari potenti e influenti, il cui interesse primario sarebbe stato quello di impedire il ritorno dei comunisti. Grazie all'appoggio degli oligarchi, Yeltsin guadagna popolarità e vince. Potanin entra nel governo di Yeltsin. Con lui gli oligarchi sono dentro il Cremlino. In più Potanin ottiene il suo scopo, controlla la Norilsk Nickel e con essa un terzo del nickel mondiale. Per un'azienda con un fatturato annuo di 2 miliardi e mezzo di dollari, Potanin ha pagato 170 milioni di dollari. Ascoltiamo. Vincemmo la lotta. Noi, imprenditori giovani, attivi, preparati per la competizione. Per molti, l'accordo dei prestiti su garanzia di azioni diventa più di uno scandalo. È considerato il furto del secolo. Ma è un prezzo che Yeltsin intende pagare per escludere i comunisti. Nel 1998 la Russia non riesce a ripagare i debiti e il mercato azionario crolla. L'epoca di Yeltsin termina con le sue improvvise dimissioni il 1 gennaio del 2000. Riprendiamo da qui dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Negli anni 90 una rivoluzione capitalistica mondiale dà inizio a una nuova era della globalizzazione ed è la più grande espansione commerciale della storia. Alla base della globalizzazione c'è il principio di un mercato aperto e libero. Gli storici sostengono che all'inizio degli anni 90, con la fine della guerra fredda e la crisi del Golfo, si è iniziata una nuova era, un'era di globalizzazione, di un mondo collegato da flussi di investimenti, di scambi commerciali, di idee, di cultura, di viaggiatori. Come spesso accade, questo cambiamento è avvenuto troppo velocemente perché riuscissimo ad accorgercene e a comprenderlo. Ma per capire dove ci troviamo oggi e in quale direzione stiamo andando, dobbiamo guardare al nostro recente passato. Dunque un processo di globalizzazione troppo veloce. Nel 1992 gli Stati Uniti sembrano andare alla deriva. La recessione ha generato 10 milioni di disoccupati. Le industrie devono lottare contro concorrenti stranieri molto agguerriti. Intanto l'Europa converge in un unico blocco commerciale. Il Giappone appare invincibile. Le società giapponesi comprano icone americane come il Rockefeller Center e gli studi della Universal. Nel 1992 Bill Clinton è il governatore dell'Arkansas, ma punta alla Casa Bianca. Promette di mettere in sesto gli Stati Uniti. Clinton ha il consenso dei sindacati, dice di voler proteggere i lavoratori americani dalla concorrenza straniera. In precedenza, però, nel corso di una riunione con alcuni finanzieri di Wall Street, Clinton aveva proposto un programma molto diverso, aspramente criticato dai suoi sostenitori. I mercati finanziari intendevano mettere un freno alla spesa pubblica. Volevano tagliare il deficit e attuare politiche liberiste. L'unico modo, secondo gli addetti ai lavori, di far ripartire l'economia. Durante una cena a porte chiuse, Clinton aveva cercato di convincere i dirigenti più navigati di Wall Street che la pensava come loro, ce lo racconta Robert Rubin, futuro segretario del tesoro di Clinton. Avevo organizzato una cena a New York con una dozzina di invitati. La questione economica vitale per il nostro paese, secondo me, era riformare la normativa fiscale, che per un lungo periodo era stata ignorata. Dopo quell'incontro, capii che Clinton aveva a cuore le questioni che per me erano più importanti. Per quanto riguarda il commercio, credeva nel liberismo, un sistema che è stato ed è tuttora un tema controverso nel Partito Democratico. 1992. Gli scambi commerciali sono tra i temi della campagna presidenziale. Il presidente repubblicano George Bush negozia un trattato che avrebbe permesso la libera circolazione di merci e investimenti tra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Per i sostenitori del libero scambio, l'apertura dei mercati crea ricchezza, unisce le nazioni e contribuisce a costruire un mondo più agiato e più sicuro. Il NAFTA mette in pratica questa idea. Si sviluppa così in America il primo grande dibattito dell'era della globalizzazione. Il NAFTA è un accordo tra Stati Uniti, Canada e Messico che mette in pratica le idee del libero scambio. Da qui si sviluppa in America il primo grande dibattito dell'era della globalizzazione. Ascoltiamo il dibattito tra George Bush padre e Ross Perot e Bill Clinton durante la campagna presidenziale americana del 92. Dovete ammettere che con il NAFTA, l'accordo commerciale con il Messico, un paese in cui la paga è un dollaro l'ora e non ci sono né assistenza sanitaria, né pensione, né controlli ambientali, perderemo moltissimi posti di lavoro nel nostro paese. Io invece sono a favore del NAFTA. Il problema invece con il governatore Clinton è che un giorno sembra finalmente decidersi, ma sostiene che ci sono molte cose che non vanno. La mia posizione è equidistante. Perot dice che è un accordo dannoso. Bush sostiene che è un accordo vantaggioso. Io dico che può esserlo soltanto se riusciremo a pretendere che i messicani rispettino le leggi sui rischi ambientali, la normativa del lavoro. Se ci impegneremo a riqualificare i lavoratori americani che perderanno il lavoro e a reinvestire nella nostra economia. Clinton, una volta eletto, persegue una politica economica volta a ripristinare la fiducia dei mercati finanziari. Tra gli obiettivi principali del suo primo mandato si propone la riduzione del deficit. Il presidente rettifica la sua posizione e annuncia il suo entusiastico sostegno al NAFTA, così come era stato approvato. Il dibattito sul NAFTA ci pone davanti una scelta: se accogliere questi cambiamenti per creare le professioni del futuro o cercare di resistere a questi cambiamenti nella speranza di mantenere le strutture economiche del passato. Qualsiasi cosa decideremo non potrà modificare il fatto che ormai ognuno può trasferire in un attimo il proprio denaro. Se abbiamo qualcosa da imparare dalla caduta del muro di Berlino e dei governi dell'Europa dell'Est, è che neanche una società completamente controllata dallo Stato può resistere ai cambiamenti che l'economia, la tecnologia e l'informazione impongono al nostro pianeta. scelta. Il voltafaccia sul NAFTA è per molti dei sostenitori di Clinton un vero e proprio tradimento. I nostri avversari cercarono di dimostrare che l'establishment era da una parte e le classi più deboli dall'altra. Agitarono lo spauracchio della disoccupazione e fu difficile far accettare l'accordo. Alla fine il 60% dei membri democratici al Congresso vota contro il NAFTA, che invece viene approvato con il solo sostegno dei repubblicani. L'adesione del Messico al NAFTA e alle politiche liberiste è parte di un cambiamento di mentalità già in atto nei paesi in via di sviluppo. I governi di questi paesi vedono nell'apertura dei mercati la possibilità di una crescita economica. Una vera e propria rivoluzione che per alcuni invece è solo un'ingiustizia, è un'arma in più nelle mani delle multinazionali. Riprendiamo da qui, dopo la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Mix 24, i gialli della storia. Bentrovati su Mix 24. È il 1994 quando entra in vigore il trattato che istituisce il mercato comune tra Canada, Stati Uniti e Messico. Un accordo voluto fortemente dall'amministrazione Clinton e approvato con il sostegno dei repubblicani. Il NAFTA, un accordo ispirato al modello dell'Unione Europea, è una vera rivoluzione per alcuni, una terribile ingiustizia per altri. Ascoltiamo Vincent Fox, ex presidente del Messico, e la sindacalista T. Lee. Ho lavorato 15 anni per la Coca-Cola. Ho cominciato dalla gavetta come rappresentante. Ho imparato che disciplina, duro lavoro e talento sono doti necessarie per avere successo. Ho sempre considerato la globalizzazione come un'opportunità. L'accordo con gli Stati Uniti ha fatto lievitare il volume dei nostri scambi commerciali. 6 anni fa ammontavano a 40 miliardi di dollari. Oggi siamo arrivati a 280 miliardi di dollari in soli 6 anni. È ovvio che gli scambi commerciali e gli investimenti siano aumentati. E se l'unico metro di paragone che viene usato per determinare il successo di un accordo come il NAFTA è il volume degli scambi, allora il NAFTA ha avuto un enorme successo. Ma ai normali cittadini questo non interessa. Le aziende sono diventate più spregiudicate e minacciano i lavoratori di spostare la produzione in Messico. Sono riuscite a imporre una riduzione dei salari e a contrastare l'azione dei sindacati. In molti settori del Nord America, il NAFTA ha spostato gli equilibri di potere a favore delle corporation multinazionali. Secondo una stima del governo statunitense, da quando il NAFTA è entrato in vigore si sono persi in America circa 400.000 posti di lavoro. Le esportazioni verso paesi come il Messico e il Canada hanno creato invece più di 1 milione di posti di lavoro. Negli anni 90 gli scambi internazionali sono quasi raddoppiati. Quando si parla di commercio si pensa a merci che viaggiano attraverso i confini. In realtà però è iniziato un movimento più consistente, è quello del denaro. Un flusso mondiale 24 ore su 24 di azioni, titoli e valute. Negli anni 90 chiunque abbia dei risparmi accantonati in un fondo pensione o dei titoli li investe nel mercato globale. Lo Stato della California gestisce uno dei fondi pensione più consistenti degli Stati Uniti. Il fondo, chiamato CalPERS, gestisce i contributi pensionistici di più di 1 milione di impiegati statali. Per decenni CalPERS ha investito soltanto in America. Ma nell'era della globalizzazione avviene la svolta. Un quarto del denaro viene investito in altri continenti. I fondi pensione diventano una forza trainante dell'economia globale. Il motivo è che sono soldi veri. Il sistema pensionistico per i dipendenti pubblici della California vale un patrimonio di 150 miliardi di dollari. Ascoltiamo William Crist, che è il presidente della CalPERS. Piaccia o no, il vero motore del cambiamento del nostro pianeta, che diventa sempre più piccolo, per lo sviluppo dell'economia globale, saranno i gestori di capitali, come i grandi fondi pensione. Non possiamo tenere tutto all'interno degli Stati Uniti e comunque il denaro non rimarrebbe qui perché molte società sono multinazionali. Tutto è globale, tutto è collegato. Alla fine della Guerra Fredda, per la prima volta, molte nazioni aprono i loro mercati agli investitori stranieri. I fondi previdenziari, come il Carpers, vedono aprirsi nuove prospettive. Ai loro consulenti finanziari spetta esplorare i paesi del terzo mondo, ribattezzati mercati emergenti. Mark Mobius, a capo del fondo Templeton, ogni mese viaggia in 15 paesi e gestisce 6 miliardi di dollari. Il principio base è che i paesi emergenti crescono più velocemente. Noi cerchiamo di intervenire nel loro sviluppo e di far profitti per i nostri investitori. Naturalmente ci sono molti rischi. Bisogna cercare un punto di equilibrio e ovviamente è il nostro compito minimizzare i rischi e massimizzare i profitti. Non sempre ci riusciamo, ma questo è il nostro obiettivo. Mentre gli investimenti viaggiano per tutto il pianeta, l'amministrazione Clinton amplia i principi basilari adottati con il NAFTA. Ero a favore di una politica più aggressiva. Ritenevo che i paesi economicamente emergenti e le nuove democrazie avrebbero migliorato la propria situazione se i paesi più ricchi avessero aperto le frontiere e avessero stipulato accordi economici con loro. E se a loro volta quei paesi avessero aperto le frontiere non solo al commercio, ma anche agli investimenti. Così la politica economica e quella estera si sarebbero integrate. Molti paesi in via di sviluppo sono ex colonie dell'Occidente. Molti ambiscono a investimenti stranieri a lungo termine. Per alcuni, però, questo flusso così rapido di denaro è una minaccia per la propria indipendenza. Ascoltiamo Mahathir bin Mohamad, ex primo ministro della Malesia. Una volta che il comunismo è stato sconfitto, il capitalismo può espandersi e rivelare la sua vera natura. Non è più condizionato dalla necessità di apparire simpatico per fare in modo che la gente scelga il cosiddetto libero mercato e abbandoni la pianificazione centralizzata. Oggi, perciò, non c'è più nulla che tenga a freno il capitale, che pretende di andare ovunque per fare ciò che vuole. Alcuni lo definiscono il trionfo del capitalismo. E durante gli anni 90 moltissimi paesi adottano l'economia di mercato. Se non raggiungeremo questi mercati emergenti, se non li evangelizzeremo, per così dire, se non li incoraggeremo, se non investiremo i nostri capitali in questi mercati, temo che le previsioni che Karl Marx ed Engels fecero molto tempo fa si avvereranno e il conflitto fra ricchi e poveri porterà il sistema alla rovina. È il Vangelo del libero mercato che si impone anche nei mercati finanziari. Ma c'è anche un'altra faccia di questa rivoluzione economica ed è quella della politica. In Messico, il giorno in cui il NAFTA entra in vigore, i ribelli zapatisti danno inizio a una rivolta nel sud del paese. Poco tempo dopo viene assassinato il candidato favorito per le presidenziali. Gli investitori stranieri preoccupati per l'instabilità politica abbandonano il paese. Ascoltiamo Robert Robin, segretario del Tesoro di Bill Clinton, e Ned Gingrich, presidente del Congresso USA negli anni 90. Ero in vacanza alle Isole Vergini Britanniche sotto Natale, quando mi telefonò Larry Summers. Ci sono dei problemi in Messico e volevo parlartene, mi disse. Io pensai, oggi tocca al Messico, domani a qualche altro paese. Non capivo perché non potesse aspettare che io rientrassi. Ma poi scoprì che si trattava di un problema molto serio. Mentre pranzavo in un ristorante mi dissero che il ministro del tesoro mi voleva al telefono. Io e Greenspan abbiamo un problema, mi disse. Siamo convinti che se non ci muoveremo in modo incisivo, il peso imploderà e il governo messicano diventerà instabile. Rischiamo di dover fare i conti con 9 milioni di messicani che premono alle frontiere in cerca di lavoro. Comprese subito la gravità della situazione, disse, è la prima crisi finanziaria del XXI secolo. Dissi che era la prima crisi finanziaria del secolo, un genere di crisi a cui ci saremmo dovuti abituare. E risposi, ti darò il mio sostegno. Robert Rubin organizza una riunione al Ministero del Tesoro. Il Messico non è in grado di ripagare il debito estero. Era una situazione particolare. Il Messico rischiava la bancarotta. Avevamo enormi problemi politici per attuare il nostro programma di sostegno al Messico e cercare di impedire la crisi. Eravamo convinti che la soluzione proposta fosse quella giusta, ma sapevamo che c'era il rischio che fallisse. I consiglieri del presidente propongono l'erogazione di un prestito al Messico, 50 miliardi di dollari. Ascoltiamo l'economista Laura Tyson e poi Bill Clinton. Entrai e dissi al presidente: sta per verificarsi una grave crisi. Le possiamo suggerire cosa fare, ma non possiamo garantire che funzionerà. È una misura molto rischiosa ed estremamente impopolare, ma riteniamo che lei debba farlo. Le ascoltai per 10 minuti e dissi: è ovvio, dobbiamo farlo. Se non li aiuteremo, il Messico andrà in bancarotta. Le nostre frontiere saranno prese d'assalto da immigrati clandestini alla fame, in cerca di cibo e lavoro. Avremo un nemico al confine meridionale. I messicani si ricorderanno che ci siamo comportati male e pagheremo cara questa scelta. Ma se diamo loro una mano, sapranno che abbiamo contribuito a una buona causa. E la nostra azione avrà risonanza in tutto il mondo. La manovra di salvataggio funziona. Il Messico è in grado di pagare il suo debito prima del previsto. Ma per alcuni l'intervento statunitense segna un pericoloso precedente. Sono stati protetti i grandi investitori dai rischi che avevano deciso di correre. Dobbiamo ricordare che i beneficiari del salvataggio erano i detentori stranieri di obbligazioni messicane. Noi stavamo salvaguardando gli interessi dei cittadini americani, ma quella manovra era un segnale alle banche e agli altri ricchi investitori che il Tesoro statunitense avrebbe perseguito una politica a protezione degli investimenti. E invece chi corre dei rischi dovrebbe subirne le conseguenze, sia in caso di profitti che in caso di perdite. Era Larry Summers, consigliere economico di Bill Clinton. La crisi messicana dimostra come la tecnologia abbia trasformato i mercati finanziari. I capitali ora possono attraversare le frontiere in pochi istanti. Inizia la rivoluzione digitale. In un remoto villaggio indiano, gli agricoltori portano il loro raccolto al mercato, come avviene da generazioni. Ma grazie al collegamento con internet, il loro raccolto è pagato il giusto prezzo, fissato alla borsa mercantile di Chicago a 8.000 miglia di distanza. Questo mondo senza più frontiere crea un nuovo genere di uomo d'affari. Ogni imprenditore è in grado di pensare come una multinazionale e considerare il mondo come un mercato unico. E con l'avvento di internet, la globalizzazione dei mercati ha raggiunto il suo stadio più alto. Narayana Murthy, imprenditore indiano, comprende prima degli altri questa rivoluzione e con soli $250 Murthy fonda una società di software. La Silicon Valley diventa il centro spirituale del nuovo villaggio globale, la fonte non solo della tecnologia, ma anche di un nuovo stile di vita, di una nuova etica imprenditoriale. La famiglia Draper aveva investito in nuove idee sin dagli anni 50, quando aveva portato i suoi capitali nella Silicon Valley. All'inizio degli anni 90, Tim Draper, figlio di Bill Draper, fonda la Hotmail. Il successo immediato della sua azienda lo convince che il mondo sta cambiando. Credo che ovunque si possano avviare imprese. Tutto quello che ci vuole è un'idea vincente per migliorare un prodotto o un servizio. Quasi un quarto della popolazione fa il suo ingresso nel mercato globale. In tutto il mondo in via di sviluppo, la gente abbandona la campagna e si trasferisce nelle città industriali per cercare lavoro nelle nuove fabbriche costruite per rifornire il mercato globale. L'era della globalizzazione vede un'emigrazione massiccia senza precedenti e lo sviluppo economico mondiale avviene per l'80% nelle aree urbane. I leader cinesi sperano di emulare le tigri del sud-est asiatico, quelle nazioni povere che si sono arricchite con il commercio e gli investimenti. Negli anni 70, infatti, i paesi del sud-est asiatico erano diventati esportatori di rango internazionale, inviavano merci di ogni genere in tutto il mondo. È il cosiddetto miracolo asiatico. Fu chiamato il miracolo economico asiatico perché il mondo non aveva mai visto una crescita economica così rapida, che aveva salvato molte persone dalla povertà e formato una classe media in pochissimo tempo. Ma c'è un'eccezione, il Giappone. la seconda economia del mondo precipita in una grave e inaspettata recessione che mina la fiducia della sua gente. Il Giappone viveva in una bolla economica. In quegli anni i giapponesi non si preoccupavano troppo dei loro debiti. Ma quando la bolla esplose, i cittadini tornarono con i piedi per terra. Il Giappone, grande paese esportatore, protegge le sue industrie, ma i problemi economici del paese nascono da una contraddizione. Ascoltiamo Eshe Sakakibara, viceministro delle finanze del Giappone negli anni 90. Un settore dell'economia giapponese, quello orientato alle esportazioni, che comprende la Toyota e la Sony, è molto competitivo. Mentre l'altro, che opera nel mercato domestico, non è assolutamente competitivo. Abbiamo un sistema capitalistico a economia di mercato da un lato e un sistema che ricorda quelli socialisti dall'altro. In Giappone, i burocrati del governo gestiscono un'economia iperregolata. Come spiega Masaisa Naito, le idee di cambiamento si scontrano con un profondo scetticismo. Proposi la deregulation del nostro sistema finanziario. I nuovi mercati globali degli anni 90 avevano creato una nuova realtà. Io dissi che dovevamo cambiare rotta se volevamo che il Giappone primeggiasse nella nuova economia globale. Gli altri ministri mi criticarono, mi dissero che per il bene del Giappone le mie idee dovevano essere combattute. Masasa Naitove, che si occupa del Ministero del Commercio in Giappone, viene mandato via senza preavviso. Il Giappone rimane fedele al vecchio sistema. La crisi economica cresce e per la prima volta un paese protagonista del miracolo economico asiatico è in crisi. Poi all'inizio del 97 l'economia asiatica si surriscalda. Negli anni 90 la Thailandia aveva aperto i suoi mercati finanziari e per la prima volta le aziende potevano ottenere prestiti dalle banche estere che offrivano tassi di interesse più bassi. Bussavano alla tua porta e ti imploravano di chiedere in prestito del denaro. Sia le banche europee che giapponesi ti supplicavano di chiedere dei prestiti. In appena 4 anni i prestiti alle aziende thailandesi erano triplicati, fino ad arrivare a 200 miliardi di dollari. I governi americani ed europei favorivano l'afflusso di denaro nel paese. Eravamo grandi sostenitori dell'apertura dei mercati e dei benefici che ne potevano derivare, ma eravamo anche consci dei rischi. E quindi eravamo a favore dello sviluppo di un adeguato sistema bancario e di un sistema normativo. Due cose non facili. Il sistema presentava un difetto di cui molti non erano consci, ovvero la debolezza delle istituzioni. Questo significava che il sistema bancario non era sviluppato, che le leggi finanziarie erano insufficienti, non erano adeguate allo sviluppo di questo tipo di economie all'interno del sistema mondiale. La banca centrale thailandese aveva tenuto alto il tasso di sconto favorendo la bolla speculativa. Il Fondo Monetario Internazionale, che ha funzione di aiutare i paesi in difficoltà finanziarie, teme che la Thailandia si stia avviando verso la catastrofe. Stanley Fischer, all'epoca, è il vice direttore del Fondo Monetario Internazionale. Andai a Bangkok nel maggio del 1997. In città c'erano decine di gru. Sembrava che il boom non dovesse mai finire, ma le banche erano incaute e prestavano denaro contro la garanzia di immobili che non sarebbero mai stati terminati. La valuta thailandese, il baht, fu fissata rispetto al dollaro. L'economia thailandese era sempre più debole e i mercati finanziari capirono che non poteva durare. La Thailandia aveva fissato il valore della sua valuta in dollari. Aveva un tasso di interesse fisso, ma la gente cominciò a domandarsi se le banche potessero davvero cambiare i baht, la valuta thailandese, in dollari. E fu allora che molti iniziarono a chiedere dollari. La banca centrale insisteva di poter mantenere la propria moneta a tasso fisso e dava fondo ai suoi dollari per proteggerla. Le riserve di valuta estera stavano diminuendo. Ovviamente i dirigenti dei fondi capirono che l'economia thailandese era in crisi e corsero a disfarsi di tutti i baht che avevano. Il baht viene sottoposto a una forte pressione dei mercati. Nel luglio del 97 il governo della Thailandia è costretto a svalutare la moneta. La bolla esplode e la crisi finanziaria asiatica comincia. La crisi attraversa trasversalmente tutta la società thailandese. Il Fondo Monetario Internazionale fa un prestito di emergenza alla Thailandia, ormai in caduta libera dal punto di vista economico. Ma neanche questa misura è sufficiente. Il governo thailandese chiede aiuto agli Stati Uniti. Nessuno immaginava che un'economia su scala ridotta come quella thailandese potesse provocare una crisi mondiale. L'economia thailandese è molto modesta, non è collegata a noi né troppo vicina. Quindi il governo decise di non intervenire in Thailandia perché riteneva che la crisi sarebbe rimasta a livello locale. L'effetto contagio non era evidente per nessuno, non soltanto per chi lavorava per l'amministrazione. Credo che sottovalutarono la situazione. La sottovalutarono forse perché lo considerarono un problema strettamente finanziario, piuttosto che un problema strategico e globale. Erano la voce del primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong. I mercati temono che altri paesi asiatici possano avere simili problemi. 116 miliardi di dollari defluiscono dai mercati del sud-est asiatico. La crisi thailandese, apparentemente marginale, provoca un contagio mondiale. A ogni nuova fase, la crisi mostrava una tale virulenza che venne definita contagiosa. Era molto più grave di quanto era apparsa all'inizio. Era l'effetto della globalizzazione, del fatto che queste economie erano legate le une alle altre. Gli investitori nei mercati emergenti pensavano che se c'era un problema in Thailandia, si sarebbe diffuso anche nei paesi vicini. Il contagio si propaga nei paesi confinanti. L'economia malese sembra stabile, ma invece non è così. Ascoltiamo l'ex primo ministro della Malesia, Mahathir bin Mohamad. La nostra moneta era sempre più debole e di conseguenza lo era anche il mercato azionario. Ci sentivamo impotenti. Sembrava che non ci fosse modo di rimediare alla crisi. Il contagio quindi investe l'Indonesia, il paese più popoloso della regione. Il governo cade. Nelle città regna il caos. I manager dei fondi non distinguevano tra Indonesia, Malesia, Thailandia o Singapore. Volevano solo abbandonare i mercati di questi paesi. I prezzi delle proprietà precipitarono, le società fallirono e in Indonesia venne distrutto il tessuto sociale. Furono bruciate chiese e moschee. Ci furono molti morti. Tutto questo in seguito alla crisi economica. È un nuovo tipo di crisi economica, diversa da quelle gestite dal Fondo Monetario Internazionale, che eroga cospicui prestiti all'Indonesia e alle altre nazioni, ma a condizione che taglino le spese statali, alzino i tassi di interesse e cancellino la corruzione. Alla fine del 97 il contagio si diffonde alla Corea, una delle economie più attive del mondo. Ascoltiamo ancora Robert Rabin. Nell'ultima settimana di dicembre del 1997, l'undicesima economia del mondo, la Corea, aveva circa 4 miliardi di riserve monetarie e ne gestiva un miliardo al giorno. Non ci voleva molto per capire che la situazione non poteva durare. La Corea aveva ingannato il mondo finanziario sostenendo di avere denaro a sufficienza per sopportare la crisi. Stanley Fischer del Fondo Monetario Internazionale va a Seul per controllare i conti della banca centrale. Visitai la Corea un paio di giorni prima che chiedesse il prestito al Fondo Monetario Internazionale. Era un paese in preda al panico. Andai alla banca centrale dove mi mostrarono quanto denaro era rimasto nelle casse. Erano praticamente vuote. La Corea riceve 55 miliardi di dollari in nuovi prestiti e in crediti. In un mondo ormai così aperto e globalizzato, è difficile immaginare quale sarà l'evoluzione dell'economia del XXI secolo e quali saranno i protagonisti, ma certamente saranno ancora le teorie di Keynes e Hayek che ne determineranno la strada. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.